Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. È la notte tra l'8 e il 9 maggio 1978. Sono le ore 1:40. Il treno locale Trapani-Palermo sta attraversando la località Feudo, pochi chilometri da Cinisi. Conduce Gaetano Sdegno. Il macchinista avverte uno scossone. Ferma la locomotiva. Il binario è tranciato di netto. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria. Alle 3:45 i carabinieri giungono sul posto. Compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri. Nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. E ciò che resta di Peppino Impastato, 30 anni, militante di Democrazia Proletaria. La madre Felicia Bartolotta è ormai scomparsa. Giancarlo Santalmassi aveva raccolto la sua preziosa testimonianza per il programma di Radio 24, Viva Voce. Certo che lo ricordo bene. L'aspettavo Marcella la sera, che aveva venuto da cucina mia dell'America. E Giuseppe non si è presentato. Insomma, le compagne le avevano cercando. E la mattina è giornata morta, dopo binario. Tutto pezzi, e ci fu una confusione tanta, la testa ce la fa cassare. Giuseppe veniva della radio auto e lo pigliare a metà di strada, l'hanno stordito in macchina e se l'hanno portato in quel casolare, un casolare antico, rustico, in una campagna sperduta, nessuna casa. Ora, in quel casolare c'era una palata alla stretta di una sedia e l'hanno messo in questa palata. O forse l'attaccarono e confutarono una pietra grossa in testa, come gli animali, fino a che l'hanno ucciso. Hanno pigliato le balate, le pietre, e l'hanno portato in uno specialista a Palermo, nel Carpio. E fece l'esame di sangue del gruppo sanguigno di mio figlio. Poi lo portavo un binario per far capire che aveva fatto un attentato. Ma la gente non ci hanno creduto. Ma siccome c'era la paura a quei tempi, parlavano in sottovoce. Ma Giuseppe era cosa di fare attentato. Ora no, ora no, ora parlano chiari la gente. Ma poi i carabinieri nascondero tutto, hanno nascosto tutto. Pietre, le pietre, che restano pezzettine di carne così poco. Hanno nascosto tutti i carabinieri, tutto. Peppino Impastato nasce a Cinisi il 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, è un piccolo imprenditore affiliato al clan di Don Tano Badalamenti. Lo zio, Cesare Mantella, è un capo mafia ucciso nel 1963 nel corso di una guerra tra clan. Negli anni 60 Impastato sceglie la strada dell'impegno politico. Si schiera a fianco delle lotte dei più deboli, dei contadini, partecipa alle manifestazioni sindacali, fonda giornali come ricorda il fratello Giovanni Impastato. Lui inizia il suo impegno e la sua attività esattamente a metà degli anni 60, in un periodo storico ancora più difficile di quello del 78. E inizia con il giornale, l'Idea Socialista, il giornale che esce in quel periodo lui assieme a un gruppo di suoi compagni e amici, cioè fonda quel giornale e pensate un po', a metà degli anni 60 già lui mette in evidenza, fa le sue prime denunce e mette in evidenza il rapporto fra la mafia e il potere politico, cioè fra la mafia e le istituzioni, fra la mafia e gli amministratori del nostro paese. Cioè, ripeto, siamo a metà degli anni 60, parlare di mafia in quel periodo era veramente difficile, anche se si veniva già da un passato storico quasi archiviato. E scrive in quegli anni Peppino Impastato. Arrivai alla politica nel novembre del 65, su basi puramente emozionali. A partire cioè da una mia esigenza di reagire a una condizione familiare ormai divenuta insostenibile. Mio padre, capo del piccolo clan e membro di un clan più vasto, con connotati ideologici tipici di una civiltà tardo-contadina e pre-industriale, aveva concentrato tutti i suoi sforzi, sin dalla mia nascita, nel tentativo di impormi le sue scelte e il suo codice comportamentale. In passato rompe ogni rapporto con il padre e avvia così un'attività di duro contrasto a Cosa Nostra, come ben documentato nel film Cento Passi del regista Marco Tullio Giordana. Quando si parla di mafia tutti sull'attenti, ancora. Tu e gli amici tuoi, vi credete di padre termini distinti, poi vi nominano fanno battaglia e ve lo fate di sopra. Oh, tu. Lo chiamate così. Che non lo sei scordato come li chiamavano i badalamenti. Bastardi, come le campane delle vacche. Che rito delle vasciato. Facevano i vaccari, no? I porci, le mucche, le vitelline da schiamare fresche fresche. Facciamo le mani, lontano. A quant'è oggi a Caine? Non mi dica niente comunista. A lei, signor Impastato, ci ho messo da parte una cosa troppo speciale. A suo figlio Peppino. Come io devo servire a Polpetto, sta zizia. Se disonesto, se vasciato non hai cuore. Tu non lo capisci? E se proprio così, voglio ti ammazzano. Peppino Impastato fonda il Circolo Musica e Cultura, cineforum, concerti, dibattiti. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese gli vanno dietro. In lui vedono il coraggio di chi non abbassa il capo quando passa un suo parente, il boss dei boss, Don Tano Badalamenti, lui che abita proprio a 100 passi dalla sua abitazione. Andare a scuola, sai contare? Come contare? Come con 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. Sai camminare? So camminare. Contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza. Con sei camminare? Beh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come cammini? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Matutano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar, alla fine ti sembrano come te. Salutiamo Tutano! Ecco, i giovani, questi sono loro i padroni di Giriti. E lascio grillare, prima che sia troppo tardi. Prima di non accorgerti più niente! Siamo nel 1976 e insieme ad un gruppo di amici Impastato fonda Radio Out, emittente privata autofinanziata con cui denuncia delitti e affari dei mafiosi, in primis quelli del boss Gaetano Badalamenti, Don Tano. Gestisce traffici internazionali di eroina attraverso il controllo dell'aeroporto di Punta Raisi. Il programma più seguito è Onda Pazza, una trasmissione satirica con cui Peppino Impastato si prende gioco di criminali, di politici, di mafiopoli, ovvero cinesi. Oh yeah, you speak English? Sì. Ma guarda, ti dice yeah. Naturalmente il cuore di Mattiopoli. Tutto è passato, non ci pensare più. Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa. Ah, voglio, su capita, stanno in coppa. In coppa a che cosa? In coppa di cavallo. In coppa di cavallo. Il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. È un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lista il cavaliere. Ma come? Meglio cavallo da stoppare? No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere. Nel 1978 Impastato si candida come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Caratterizza la sua campagna elettorale nella lotta alla mafia criminale, ma a quell'appuntamento Peppino non arriverà mai. Nell'aprile di quell'anno parla così dai microfoni di Radio Out. Giungono a questo, proprio in questo momento i risultati ufficiali dell'assegnazione degli scrutatori avvenuta nel corso di una riunione segreta clandestina, come le Brigate Rosse, sì, clandestina, della Commissione elettorale. Bene, questi i dati, questi i risultati dell'assegnazione. Democrazia Cristiana, scrutatori? 36? Bene, bene, bene. Inoltre sono stati assegnati 9 scrutatori al partito della sinistra avanzata, 9 scrutatori, 36 e 9, ho sbagliato prima dato, alla Democrazia Cristiana sono stati assegnati 27 scrutatori, 9 scrutatori sono andati a un cane sciolto, all'ex palafreniere dell'onorevole Ninni Carozzo, il quale non sappiamo come distribuirà questa sua consistente fetta di torta. 9 scrutatori sono andati al partito della sinistra avanzata, per intenderci al partito di Franco Maneschi, della Democrazia Cristiana, cioè nei 27, all'interno dei 27 scrutatori della Democrazia Cristiana, sono confluiti i 9 scrutatori assegnati quale rappresentante del Partito Socialdemocratico defunto o in via di estinzione a Don Faro Arca di Scienza, il quale, avendo il figlio candidato nelle liste della Democrazia Cristiana, ha ritenuto opportuno e doveroso fare slittare, trasferire i suoi 9 scrutatori alla Democrazia Cristiana. 18 ne aveva e 9, 27. La satira di Peppino Impastato prosegue senza sosta, come nella Cretina Commedia, la sua ultima trasmissione, dove Cinisi resta sempre mafiopoli e Don Tano seduto è in realtà Don Tano Badalamenti. Sì, l'avrete riconosciuto, è l'ambulanza di Mafiopoli. Sì, all'interno, anche l'ambulanza di Mafiopoli è finita all'interno. L'abbiamo vista correre dappertutto, sempre nell'interno. Voglio tenere, vedere, legata con un raggio di sole. E procediamo nel nostro cammino nell'interno. Eravamo a Mafiopoli e ci restiamo. Sì, sempre l'ambulanza, si sapeva. Giovanni Impastato sostiene che proprio queste trasmissioni alla fine hanno condannato a morte suo fratello Peppino. A risentire queste trasmissioni mi provoca una grande emozione, perché diciamo che queste trasmissioni in un certo senso hanno anche decretato la morte di Peppino Impastato, perché diciamo che è stato uno dei pochi, forse l'unico, che ha lottato la mafia anche con il senso dell'ironia, cioè ha lottato la mafia facendoli un po' impazzire, nel senso che ha fatto ridere tutto il paese di Cinisi alle loro spalle, e credo che i mafiosi vivono di grande prestigio, loro sono forti perché appunto la loro forza è basata sull'omertà, e cioè, sentirsi sbeffeggiati in questo modo, a parte poi tutto quello che faceva Peppino, perché Peppino non faceva soltanto la radio, era impegnato molto nel sociale, lui con le sue denunce era riuscito anche a bloccare grandi progetti di speculazione che sono avvenuti lì nel nostro paese, a Cinisi. Infatti Cinisi è un paese in provincia di Palermo, vicino alla città, ed è proprio di fronte all'aeroporto di Punta Raisi. Tra poco, dopo la pausa, il racconto del giallo e nero su Peppino Impastato. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. L'inchiesta sulla morte di Peppino Impastato inizia male e prosegue ancor peggio. Avvengono gravissimi depistaggi, manipolazioni che ritarderanno il corso della giustizia. Notte tra l'8 e il 9 maggio 1978. Il tratto di binario tranciato dall'esplosione viene subito riparato dai tecnici delle ferrovie. A 20 metri dal luogo dell'omicidio, i carabinieri trovano una Fiat 8,50. È di proprietà di Peppino Impastato. Dal cofano socchiuso esce un cavo telefonico collegato con i morsetti alla batteria. Nell'auto c'è una matassa di 20 metri di cavo, proprio la distanza che separa il veicolo dai binari. La La pista seguita dai carabinieri e dalla polizia è l'attentato terroristico. Per gli inquirenti, Peppino Impastato muore dilaniato dall'esplosione di una bomba che intendeva collocare lungo la tratta ferroviaria. I carabinieri perquisiscono le case della zia, Fara Bartolotta, della madre, Felicia Bartolotta, e dei compagni di Peppino. Requisiscono libri e giornali. In casa della zia trovano la lettera in cui Peppino parla dei suoi propositi di suicidio, scritta mesi prima. Non vengono perquisite le case dei mafiosi, soprattutto quella di Don Tano Badalamenti. Nel giorno del funerale di Peppino Impastato, a cui partecipano 1000 persone, viene presentato un rapporto del maggiore dei carabinieri Subranni e scritto che Peppino Impastato è morto compiendo un attentato terroristico. Felicia Bartolotta gli ricorda così quegli attimi terribili. Siccome c'era stato la morte di Moro, che allora c'era un terrorista, e pensarono di fare passarlo come terrorista. E hanno approfittato sulla morte di Moro e fecero questa cosa. E poi noi cominciamo a... Abbiamo costituito le parti civili, insomma, siamo lavorato. Siamo andati nei chimici, Falcone si è interessato pure, poi c'era Caponetto, magari Borsellino. Ma io la sapevo esattamente la morte di mio figlio, sì. Tutto sommato, dato che erano d'accordo tra politici, carabinieri, e c'era poco da fare. La battaglia tra verità e menzogna è appena iniziata. Gli amici di Peppino presentano un esposto e proseguono le ricerche. Il giorno dopo, al professor Del Carpio consegnano frammenti del corpo di Peppino e una pietra macchiata di sangue. La pietra la trovano all'interno del casolare, nei pressi del binario, dove Peppino era stato portato già tramortito. Gli amici di Peppino presentano un nuovo esposto, ma il maggiore dei carabinieri Subranni, invece di indagare, conferma la tesi. Impastato si suicida mentre compie un attentato terroristico. Si prosegue tra colpi di scena, speranze per i familiari di Peppino Impastato e nuove amarezze. Nel maggio 1992 il tribunale di Palermo decide l'archiviazione del caso, individua la pista mafiosa e ammette l'impossibilità di processare i colpevoli. Siamo nel giugno del 1996. Il collaboratore di giustizia Salvatore Palazzolo indica i nomi dei mandanti dell'omicidio di Peppino Impastato. Sono Don Tano Badalamenti e il suo vice Vito Palazzolo. L'inchiesta viene così formalmente riaperta e nel novembre 1997 viene finalmente emesso un ordine di cattura per Badalamenti. La giustizia compie il suo corso. 5 marzo 2001. La Corte d'Assise di Palermo riconosce la colpevolezza di Vito Palazzolo e lo condanna a 30 anni di reclusione. 11 aprile 2002. Ergastolo a Don Tano Badalamenti. È il mandante dell'assassinio di Peppino Impastato. Si difende così il boss Don Tano Badalamenti durante una delle udienze del processo. Il fatto che Peppino Impastato abbia detto che Gaetano Badalamenti gioca questo e questo, a me non risulta assolutamente che una volta sola abbia menzionato il nome di Gaetano Badalamenti. Ma può essere che io non la conosco, sicuramente la Corte la conoscerà, presto o tardi. Che ha detto Tano seduto. Non mi pare che sia una parola offensiva se è riferita a me. Don Tano Badalamenti è morto il 30 aprile 2004, era ammalato da tempo in modo gravissimo e si è portato via anche alcuni segreti della mafia italo-americana, quella che ha ordinato l'uccisione di Peppino Impastato. Quando è venuto il dottore Caselli, io ho detto al dottore Caselli che se era vero quello che Peppino Impastato era contro la droga e faceva comizi contro la droga, se era vero questo documento che ho avuto dal Dipartimento di Giustizia americano, non lo sto, scusale, non lo sto facendo come hanno detto che ho fatto prima, che ho fatto così. Sto facendo solo per far vedere alla Corte. Una copia di questo, confermata dal Dipartimento di Giustizia americano, che me l'ha dato il Dipartimento di Giustizia americano, attesta che io sono stato il promotore di tenere la Sicilia fuori dalla droga e fuori dai sequestri. Se fosse vero questo, e Peppino Impastato parlava contro la droga, mi pare che eravamo nello stesso binario, se fossero vere tutte e due le cose. Ma nella sentenza finale che ha condannato Badalamenti resta comunque scritto: grazie alle dichiarazioni dei collaboratori, non solo si è potuto restringere il cerchio della responsabilità alla cosca di Cinisi, ma anche è rimasto accertato che Badalamenti Gaetano, avvalendosi delle prerogative di capo di detta famiglia, decise l'omicidio e la sua esecuzione con quelle particolari modalità, essendo il maggiore interessato sia all'eliminazione del Giuseppe Impastato che alla successiva messa in scena dell'attentato, cosicché il composito quadro indiziario, per la sua gravità, precisione e univocità, impedisce ogni altra lettura alternativa. Tutto chiaro? Forse no, come appare dai documenti della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Peppino Impastato. È ancora tutto da scrivere il capitolo del rapporto tra mafiosi e forze dell'ordine. E quando finalmente lo si scriverà, si potrà vedere che è popolato da noti capimafia che con i carabinieri trattano, si accordano, fanno dei patti. Un doppio gioco, ma alla luce del sole. E al di là delle vicende giudiziarie, restano vive ancora oggi le parole e l'ironia di Peppino Impastato nella sua radio out. Era un ragazzo che non voleva essere un eroe, ma che oggi, a distanza di molti anni, rappresenta una figura limpida, coerente e ancora tutta da riscoprire della lotta alla mafia e i suoi rapporti con il potere politico. Sì, sì. Facciamo finta che... Un bacione allora a tutti gli amici, agli amici degli amici, e anche ai nemici, anche ai nemici, sì, anche ai nemici, gli amici, e poi ancora gli amici. È un augurone da Onda Pazza a tutti qua, i candidati, perché tutti siano eletti. Gli schizzi di Onda Pazza. Noi ci auguriamo. Appunto da Radio Out. Ciao, ciao. Ciao. Onda Pazza, mare leggermente agitato. Tutto va. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi, sonorizzazione di Michele Contessa.